in primo piano. Buona giornata da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. I quotidiani questa mattina in edicola sono praticamente tutti o quasi tutti, in larghissima maggioranza diciamo, per l'evidenza data al vertice di Ventotene, di cui avete sentito anche nel giornale radio poco fa. Diciamo che se dovessimo fare una percentuale siamo sopra il 90% del titolo più importante dei quotidiani di questa mattina dedicati al vertice di Ventotene. Le scelte sono diverse naturalmente, quindi ve ne diamo conto con una breve panoramica. Da una parte il Messaggero decide di dare risalto alla UE, l'Unione Europea che va avanti anche dopo Brexit, usando così il virgolettato che è stato ribadito dai tre leader, ricordiamo Angela Merkel, François Hollande e il nostro Matteo Renzi. A Ventotene, scrive il Messaggero nel suo titolo più importante, Renzi, Merkel e Hollande, ora misure forti per la crescita, scriviamo il futuro, dossier su sicurezza, difesa e investimenti e duello sulla flessibilità. Ne parleremo vergendo qua e là dai quotidiani oggi di questa flessibilità per la quale l'Italia si attende molto, anche in considerazione di questa crescita economica che non riparte. La cancelliera che ha frenato, ha detto, la flessibilità c'è già, scrive il Messaggero, ricorda il Messaggero nel suo titolo di prima pagina. Cambiando giornale, Avvenire, Unione Europea, voglia di riscatto. Renzi, Merkel e Hollande, Brexit non è la fine, impegno sui migranti e spazio per la flessibilità. Non si capisce se polemico o meno il titolo del quotidiano nazionale, Il Giorno, Ventotene spot per la UE, nel senso che l'aspetto polemico poi viene sottolineato appunto sulla poca efficacia di questi vertici da altre testate, le vedremo. Renzi, Merkel e Hollande sulla tomba di Spinelli, Altiero Spinelli, uno degli estensori del manifesto di Ventotene 1941, come sapete, che è un po' stata la base ideale dalla quale si è voluti ripartire, e poi il vertice a bordo della Garibaldi, della nostra nave militare. Il Premier, avanti nonostante la Brexit, ma restano tutti i nodi, così il titolo del Giorno. Di tutt'altro tenore il titolo invece in prima pagina di Libero, I nostri becchini, che campeggia sopra una foto dei tre premier, appunto Hollande, Merkel e Renzi, ritratti a Ventotene. Crisi economica, immigrazione, terrorismo, i tre statisti fanno poco e quel poco è sbagliato, parlano di cultura e unità, ma non sanno fare altro che mettere sempre più nei guai l'Unione. Questa è la sintesi del titolo in prima pagina dell'incontro di Ventotene, come dire con un eufemismo, una sintesi certo non lusinghiera. Più nel merito il titolo del Sole 24 Ore, difesa, migranti, crescita, le tre priorità dell'Europa. Renzi, l'Europa non finisce con Brexit, ora più investimenti, e Merkel dice flessibilità è già nel patto di stabilità, tratti la Commissione, quindi rimanda alla Commissione la decisione. Hollande dice più mezzi antiterrorismo. C'è molti naturalmente gli editoriali, commenti che trovate sui giornali di oggi che spiegano queste indicazioni che giunte ieri da Ventotene, ad esempio sul Sole 24 Ore il commento di Adriano Cerretelli, lo leggeremo più avanti nel corso di questa rassegna stampa. Hollande, che ancora da Sole 24 Ore, ribadisce servono più mezzi contro il terrorismo. E ancora una buona giornata da Mauro Meazza, grazie anche a Peter Bescapè questa mattina in regia. Come vi dicevo nei primi minuti di questa rassegna stampa, i quotidiani stamane sono pressoché tutti unanimi nel dare evidenza all'incontro avvenuto ieri a Ventotene tra Angela Merkel, François Hollande e Matteo Renzi. Incontro appunto per preparare formalmente il vertice che poi si terrà a Bratislava, e in realtà dal forte significato politico per una sorta di rilancio ideale dell'Europa, e così appunto lo raccontano oggi i quotidiani in edicola. L'Europa non finisce con la Brexit è il titolo scelto dal Corriere della Sera, difesa e crescita le priorità, difficile equilibrio, sicurezza e accoglienza. Il punto della sicurezza e diciamo della gestione anche dell'emergenza dei migranti occhieggia qua e là nei vari commenti e poi tra l'altro si intreccia anche con alcuni aspetti di cronaca di cui vi dirò più avanti. Il giornale decide di dare al vertice di Ventotene un titolo polemico che riprende la nostra politica interna. Merkel e Hollande danno la linea a Renzi pure sul referendum. Il pressing internazionale, così spiega il giornale in prima pagina, pressing internazionale per tentare di sterilizzare gli effetti sul governo italiano di una vittoria del no al referendum. Complessivamente va detto a margine, non ne viene riferito dal giornale, i tre leader hanno comunque delle scadenze elettorali importanti e quindi le loro dichiarazioni, diciamo, di ieri importate all'Unione Europea poi vanno anche lette in chiave nazionale per ognuno di loro, perché ognuno è atteso da scadenze elettorali importanti. Però non è questo il titolo principale del giornale, perché più spazio occupa la vicenda del cosiddetto rapitore di Ragusa. Ora non so quanti di voi abbiano seguito questa notizia di cronaca, che in realtà ha avuto più che altro un grande slancio sui social network, sui commenti. C'è stato un tentativo di sequestro, in realtà durato pochissimi minuti, da parte di un indiano, di una bambina italiana, sulla spiaggia di Vittoria, appunto, che sta in provincia di Ragusa. Fermato, non è stato poi rilasciato, però sull'indiano pende un decreto di espulsione. Ma è il fatto che non sia stato fermato, non sia stato messo in carcere o comunque non sia stata presa alcuna misura restrittiva della sua libertà personale quella che ha scatenato le reazioni dei social network. Ora gli paghiamo anche la fuga, è il titolo polemico del giornale. Torneremo su questa vicenda perché altri quotidiani ospitano anche delle dichiarazioni, delle precisazioni sul perché le cose siano andate così. Continuiamo il nostro primo sfoglio delle prime pagine. La Stampa, Ventotene, messaggio all'Europa, il vertice nell'isola simbolo, i leader sulla tomba di Spinelli, intesa sulla sicurezza comune e spiragli sulla flessibilità. E invece molto meno positivo, diciamo, molto meno neutro il Fatto Quotidiano, che dice: battaglia navale a Ventotene, tre leader, tre colpi in acqua. Il Premier ricorda Altiero Spinelli, annuncia: l'Europa non è finita con la Brexit, grande spiegamento di forze, ma nessun risultato concreto. La cancelliera tedesca che dice: è un vertice come tanti altri. Chiudiamo questa prima rassegna dei titoli con la Repubblica. Ecco l'Unione Europea del dopo Brexit. Merkel, due punti. La flessibilità c'è già. Questo riguarda, diciamo, i nostri conti, soprattutto è un messaggio per i nostri conti e un messaggio per quanto riguarda la prossima manovra di bilancio che stiamo preparando per il 2017 e sulla quale pende appunto l'incognita della flessibilità che l'Unione potrà o non potrà concederci. Restiamo qualche momento su allora questo vertice. Come vi dicevo, i commenti sono tantissimi, anche di segni molto diversi, soprattutto però mi sembra importante cercare di segnalarvi che cosa è realmente successo, che cosa potrebbe significare questo incontro di Ventotene per l'Europa, per il futuro dell'Europa, quindi poi per il futuro di tutti quanti noi, soprattutto in materia di sicurezza, in materia di sviluppo economico, in materia di crescita e anche naturalmente di migranti, di gestione della emergenza dei migranti. Allora prendo un paio di commenti, so di fare torto a molti altri, però la scelta così è assolutamente casuale da parte mia. Marco Zatterin firma l'editoriale sulla Stampa, dice: per l'Europa che riparte da Ventotene c'è un'allarmante distanza tra il sogno e la realtà che ogni giorno scuote. L'Europa col dramma delle migrazioni, la ripresa che stenta, il terrorismo, le vicine guerre che alimentano ogni paura. È evidente il divario tra la retorica dei tre leader schierati sul ponte della Garibaldi e i fatti necessari per crescere e riguadagnare la fiducia dei cittadini. Ogni riscossa ha però bisogno di sogni e simboli per cominciare, poi servono le azioni e le decisioni. Così dalla prima pagina, prosegue poi pagina 3 il commento, l'analisi di Marco Zatterin sulla Stampa. Senza appunto questi sogni, questi simboli, questi momenti simbolici, spiega Zatterin, non si va da nessuna parte. Dice: l'universo in cui il breve summit svoltosi nelle acque dell'isola Pontina prova a catapultare l'Europa è quello della ripartenza necessaria. Certo, non semplice, ma ancora possibile. Renzi è ben imbeccato quando pesca dal manifesto di Spinelli e Rossi una frase cruciale. Dice che oggi è il momento in cui bisogna saper gettare via i vecchi fardelli divenuti ingombranti. Sembra pensata ieri, invece è vecchia di 70 e passa anni, scritta in un mondo diversamente pericoloso. È scritta nel 1941 questa frase, quindi potete capire come in piena Seconda Guerra Mondiale e tra l'altro in una fase favorevole alla Germania nazista questa frase avesse un significato molto particolare. È questo il compito che tocca all'Europa: tenersi pronti al nuovo che sopraggiunge, così diverso da tutto quello che si era immaginato. C'è l'ambizione e lo scatto. Hollande, Merkel e Renzi davanti alla tomba di Spinelli, padre del federalismo europeo, regalano un'immagine inedita e toccante. Chi segue la scena dai palazzi di Bruxelles si compiace per il messaggio che deriva dalla visita al cimitero di Ventotene, non senza però interrogarsi se sia fede vera o l'ultima spiaggia di tre condottieri che, cercando una via di uscita per i problemi interni, si offrono sponda reciproca, stringendosi nell'afflato europeista per salvarsi la pelle politica. Insomma, secondo l'analisi di Zatterin, naturalmente questo vertice, oltre a cercare di trovare delle linee comuni per lo sviluppo, una ripartenza in qualche modo anche ideale, anche politica, soprattutto dell'Europa, politica nel senso più alto del termine, è anche però un momento importante per i tre leader per cercare di ribadire il loro consenso per prepararsi ai prossimi appuntamenti, alle prossime sfide elettorali. Nessuno fra gli oratori della Garibaldi è certo di essere in sella nel 2018, ma se salvano l'Europa per salvare se stessi va comunque bene, sorride un diplomatico. Più avanti poi vi ho letto solo una parte del commento di Zatterin, ma che cosa si è deciso in qualche modo? Una decisione vera e propria non poteva essere presa, però era importante la indicazione di linee guida comuni. Allora, la roadmap dell'Europa, così come la riassume ad esempio la Stampa, è suddivisa in quattro punti: la crescita economica, poco spazio alla flessibilità, purtroppo, alla flessibilità per i nostri conti, per i conti italiani nei confronti della Commissione, più fondi per l'Erasmus, quindi un rilancio sulla cultura. L'Erasmus, sapete, questo il programma per studiare all'estero da parte dei giovani, l'Europa unita, appunto, che non significhi solo burocrazia o austerità, ma anche la possibilità di viaggiare liberamente. Poi i migranti, con la sottolineatura del ruolo chiave della Turchia, e la difesa, per la quale è stata sottolineata soprattutto dal presidente francese Hollande la necessità di una maggiore integrazione. Questo il riassunto che trovate sulla Stampa. Come vi dicevo, in realtà tutti i giornali sono molto prodighi di particolari sul quel vertice di Ventotene, soprattutto nelle primissime pagine. Restiamo ancora qualche minuto su questo vertice. Rifaccio quanto scritto dal Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore che segnala appunto come Ventotene sia stata questa prima tappa del confronto tra i paesi europei chiamati a rilanciare l'Unione, nella consapevolezza che per arginare altre eventuali spinte centrifughe è fondamentale trasmettere l'importanza che la Unione può avere sul fronte dell'economia, la sicurezza, l'occupazione e i migranti. Per quanto riguarda la flessibilità, il Sole 24 Ore di oggi dice che, appunto, riportando le considerazioni di Angela Merkel, ci sono dei margini di flessibilità, ma deve valutarli la Commissione. Su un punto c'è stata una sostanziale apertura, poi si tratterà di capire come queste aperture politiche si tradurranno anche in aperture dal punto di vista della possibilità di manovra da parte dei vari paesi, un'apertura sugli investimenti nei siti culturali da lasciare fuori dal patto di stabilità, e sostanzialmente non contare gli investimenti in cultura come se fossero spesa pubblica, ma lasciare mano libera agli stati. E chiaramente per noi, che siamo un paese con un patrimonio culturale enorme, questo tipo di apertura è molto importante. Per i migranti, riferisce sempre Gerardo Pelosi oggi a pagina 2 del Sole 24 Ore, c'è un impegno tedesco sulla relocation, insomma sul fatto di poter gestire in modo congiunto tra tutti i paesi l'emergenza migranti, quindi anche con una loro sistemazione diversa che superi gli attuali blocchi, quelli che vediamo, appunto, abbiamo visto prima in Grecia, adesso siamo tornati a vedere in Italia, con persone che cercano di passare i confini europei ma vengono poi respinte alla frontiera. Vi ricordo che anche questa mattina, naturalmente, è possibile inviarci dei messaggi, degli sms o scriverci su WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso, 349-238-6666. Mi scrive polemicamente un ascoltatore: ma se i giovani parliamo solo di Spinelli non si corre il rischio che l'Europa vada in fumo? È quasi un calambur tra, appunto, Altiero Spinelli e, come sapete, la discussione che si sta facendo ora per un disegno di legge in discussione, che sarà in discussione alle Camere quando queste riapriranno, sulla legalizzazione della marijuana. Allora, restiamo ancora per pochissimo tempo su Ventotene, chiudiamo, diciamo così, questa pagina, riprendiamo magari da un giornale che è abbastanza critico nei confronti di Ventotene, e che però, appunto, il giornale presenta nella sua pagina interna un riassunto molto chiaro delle decisioni, di quello che si è un po' impostato ieri. Verso la Guardia Costiera Europea, la sorveglianza dell'Unione Europea dei confini marittimi è l'unico progetto che è emerso dal summit, scrivono Massimo Malpica e Antonio Signorini. Sull'immigrazione la politica comune resta lontana. Dopo l'addio del Regno Unito, dopo Brexit, lo scontro adesso si sposta sui tempi del distacco inglese, saranno più o meno lunghi, non lo sappiamo ancora. Flessibilità, l'abbiamo già ricordato, prosegue il braccio di ferro con Berlino, e poi una Schengen della difesa che diventa la nuova priorità. Ecco, la Guardia Costiera Europea e questa intesa su una difesa comune, su una politica di difesa comune, sembrano i tratti più concreti effettivamente tracciati ieri a Ventotene. E allora torniamo, ancora una buona giornata da Mauro Meazza, torniamo alla lettura dei giornali. Abbiamo dato ampio spazio all'incontro di ieri dei tre leader francese, tedesco e italiano a Ventotene per trovare un piano di rilancio politico, soprattutto della nuova dell'Europa, per dare all'Europa un maggiore slancio anche dopo il voto di Brexit, che effettivamente ha segnato un punto importante a favore degli euroscettici. Cambiamo argomento, o quasi, perché anche approfittando del messaggio che un ascoltatore ci ha inviato al numero 349-238-6666, mi scrive l'ascoltatore: a proposito di migranti, la situazione di Como è allucinante, in nessun paese viene permessa una cosa del genere. Allora, sul fatto che nessun paese eccetera eccetera, ho qualche perplessità. Ricordate Idomeni, il campo di Idomeni in Grecia, diciamo che qui, di fronte a una emergenza così epocale, è difficile che qualcuno possa dare lezioni a qualcun altro. Anche paesi magari più organizzati sicuramente di noi hanno comunque i loro problemi. Ma perché vi leggo questo messaggio? Perché proprio sul Corriere della Sera, come completamento dei temi emersi e discussi a Ventotene, Federico Fubini scrive del ministro dell'interno, appunto Thomas de Maizière, che invoca controlli al confine svizzero e l'obiettivo è rispedire i migranti in Italia. Quindi mentre i tre leader, diciamo, tracciano un piano per una gestione comune, poi la prassi quotidiana di questa, stavo per dire povera gente, ma nel senso appunto empatico del termine, la prassi quotidiana mostra tutte le sue difficoltà. E infatti, scrive Fubini, come in un domino inarrestabile, i flussi migratori continuano a spostare la pressione su confini sempre nuovi, non appena le vecchie rotte vengono bloccate. Questa volta, chiusa la via dei Balcani, rafforzati i controlli sul Brennero, la stessa dinamica si sta riproducendo sull'asse fra Italia, Svizzera e Germania. Il governo di Berlino ha iniziato a rinforzare i controlli di frontiera con la Confederazione Elvetica per fermare e respingere i migranti senza documenti in arrivo dall'Italia. L'obiettivo è fermarli e respingerli in un primo tempo verso la Svizzera e da lì in Italia. Anche se la loro sistemazione al rientro dalla frontiera di Chiasso rischia di diventare il prossimo rompicapo logistico di questa emergenza ormai durata da oltre un anno. Che il flusso dei clandestini tra Italia, Svizzera e Germania sia ormai al centro delle attenzioni dei governi lo ha confermato ieri il ministro dell'interno Thomas de Maizière a margine del suo incontro con l'omologo italiano Angelino Alfano. Si sono visti i due al meeting di Rimini. De Maizière stima che gli ingressi illegali in Germania dalla Svizzera di migranti sbarcati in Italia siano stati 812 nel mese di luglio e 512 nei primi 19 mesi di agosto, più dell'anno scorso, anche se non è ancora realmente preoccupante. L'aumento sugli stessi mesi del 2015 sarebbe stato del 40%. De Maizière ricorda che è in vigore un accordo tra Berlino, Berna e Roma, secondo il quale tutti i migranti senza documenti che dall'Italia vanno verso la Germania attraverso la Svizzera devono essere intercettati e rimandati indietro. Scrive ancora Fubini, comunque quello tra i tre paesi, nonostante questo accordo, non ha fatto l'aria di un equilibrio stabile, perché i filtri sulla frontiera elvetico-tedesca e i respingimenti quindi di persone verso l'Italia stanno sollevando sempre maggiori preoccupazioni politiche e pratiche. Mercoledì scorso è stata annunciata la creazione di un campo di accoglienza sul lago di Como per almeno 300 persone espulse dalla Svizzera. Ma uno sforzo del genere, scrive ancora Fubini sul Corriere di oggi, rischia di rivelarsi tragicamente insufficiente, perché solo il mese scorso le guardie di frontiera della Confederazione hanno respinto verso l'Italia 4.149 persone. Un aspetto del problema dei migranti, appunto a Ventotene si parlava dei migranti, della gestione dei migranti in una gestione che si auspica condivisa tra i vari paesi europei. Ecco, un aspetto poi maledettamente pratico, questi respingimenti che avvengono tra la Germania e la Svizzera rispetto a persone che sono partite dall'Italia. Cambiamo un argomento. Restiamo su Corriere della Sera, che già in prima pagina annuncia questo viaggio nel concorsone della scuola, una cosa che mi immagino, un tema che mi immagino andrà via via crescendo man mano che ci avviciniamo all'apertura, alla riapertura delle scuole. Un posto su tre resterà vuoto, informa Gian Antonio Stella riprendendo un'inchiesta di Tutto Scuola. Perché appunto i dubbi e le contestazioni sul concorsone non solo riguardano le persone che sono state bocciate a questo concorsone, mi spiaceva usare questo termine per un professore, ma mi sembra l'unico adatto. Da mesi, appunto, spiega Stella nella sua inchiesta sul Corriere della Sera, la rivista Tutto Scuola fa le pulci al concorsone sulla scelta delle commissioni, le paghe da fame ai commissari e i quesiti che sono stati scelti, e insomma alla fine dice il monitoraggio che gli iscritti che si sono chiusi al 28 aprile, gli iscritti esaminati fino ad oggi in quasi tre mesi sono circa la metà del totale. Solo il 62% o poco più dei vari concorsi banditi riuscirà a concludere le procedure concorsuali in tempo utile. Insomma, non finiranno in tempo e quindi non avremo le cattedre ancora affidate a tutti a questi vincitori concorsone, si ricorrerà agli iscritti alle graduatorie ad esaurimento per appunto la difficoltà nel terminare le prove. Più avanti poi Stella riferisce anche delle, come dire, della poca preparazione mostrata dagli insegnanti, in cui addirittura qualche commissario ha detto: in alcuni compiti è emersa una scarsissima conoscenza dell'italiano, tanto da indurre a chiedersi se si trattasse di candidati stranieri che non padroneggiavano bene la nostra lingua, salvo poi verificare che erano italianissimi. Ma di scuola parliamo anche sul Sole 24 Ore oggi, perché ospitiamo un'intervista al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che ci anticipa anche una estensione della valutazione dell'alternanza scuola-lavoro per l'esame di maturità. Maturità, valutazione anche sul lavoro. Giannini dice a Claudio Tucci, che l'intervista oggi, l'intervista la trovate a pagina 6 del Sole 24 Ore, che l'alternanza scuola-lavoro sbarcherà strutturalmente all'esame di maturità, perché vogliamo rendere esplicito e valutabile, sono le parole del ministro, il legame tra formazione e mondo del lavoro. In autunno, poi, l'altra, una delle altre cose che dice il ministro Giannini al collega Tucci, in autunno sarà pronta la carta dei diritti e doveri degli studenti, a breve decollerà pure il registro delle imprese che ospiteranno i ragazzi. L'iscrizione da parte delle aziende sarà gratuita. Oh, qui bisogna spiegare, per chi non avesse seguito attentamente la materia, l'alternanza scuola-lavoro è quella misura per cui si vuole che gli studenti nei loro anni di scuola superiore abbiano anche delle prime esperienze lavorative. È previsto anche ed è regolamentato dalla riforma che abbiamo chiamato della buona scuola, quella varata l'anno scorso, e questa, però questa riforma prevede appunto la creazione di un registro di imprese disposte ad accogliere gli studenti. C'erano state polemiche perché l'iscrizione a questo registro era stata gravata, è gravata tuttora da una tassa di cui effettivamente poco si comprendeva il motivo. E allora la precisazione del ministro, che dice l'iscrizione da parte delle aziende al registro, cioè il loro segnalare la loro disponibilità a ospitare gli studenti, questa iscrizione sarà gratuita. Tucci chiede, dice, l'alternanza, signor ministro, è obbligatoria dallo scorso anno, ma nelle aziende si vedono ancora pochi ragazzi. Risponde il ministro Giannini: le grandi riforme si irrobustiscono col tempo, l'alternanza con la buona scuola è uscita dalla sperimentazione, è diventata una pratica strutturale. Nell'anno scolastico che si apre fra poche settimane avremo una platea di 1.150.000 ragazzi interessati fra classi terze e quarte, un numero 4 volte superiore a quello che era pre-riforma. Però, appunto, dice Tucci, chiede il collega Tucci, un buon collegamento scuola-lavoro è fondamentale, andrebbe completato modificando l'esame di maturità. Lei su questo capitolo ha una delega da esercitare. La risposta del ministro Giannini: stiamo lavorando a questa delega che offre la possibilità di rendere esplicito e valutabile il legame fra scuola e lavoro, e l'idea è quella di inserire con più forza il risultato dell'esperienza di alternanza che ciascuno studente avrà fatto nelle prove finali. Questi alcuni passaggi della intervista al ministro dell'istruzione Giannini che trovate sul Sole 24 Ore di oggi. Abbiamo, credo, ancora un paio di minuti. Chiedo conferma a Peter Bescapè, questa mattina rientrato dalle ferie, questa mattina al di là del vetro, che è a rendere possibile questa trasmissione. E allora vi segnalo un tema, rapidamente un tema che trago dal Corriere della Sera. C'è stato ieri, proprio mentre Peter rientrava dalle sue meritate vacanze, ieri è stato anche un giorno di grandi scadenze fiscali, una sorta di tax day, lo avevamo segnalato sul Sole 24 Ore settimana scorsa. Torna sul problema Marco Sabella sul Corriere della Sera: pagate 106 imposte, in un giorno si coincidevano appunto le scadenze per 106 imposte, basta con i tax day. Scadenze ieri per più di 20 miliardi, l'appello dei commercialisti che a settembre torneranno a confrontarsi con il fisco. Scadenze ordinarie, spiega appunto Sabella, che per un gioco di rinvii dovuti al calendario, perché il 20 e il 21 agosto coincidevano con un sabato e una domenica, quindi slittavano al lunedì successivo, cioè ieri 22, ecco come si è arrivati al Tax Day del 22 agosto, con un cumulo di imposte, tasse e accise che ha raggiunto un totale di 106 differenti adempimenti, non equiparabili per importanza, gettito e numero dei contribuenti chiamati ad assolvere l'obbligo fiscale. Naturalmente in questi 106 c'erano anche cose che riguardavano magari pochissimi soggetti o platee molto ridotte di soggetti. Però al primo posto comunque ieri stava il pagamento delle imposte nel modello unico per i soggetti che sottostanno al meccanismo di studi di settore. La scadenza era 20 luglio, prorogata già, ma pagando appunto lo 0,40, come sanno i professionisti del fisco, era possibile spostare in avanti di un mese e quindi arrivare al 20 agosto, che diventava 22 agosto. E secondo fonti del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, da sola questa imposta dovrebbe rappresentare oltre la metà, diciamo una dozzina di miliardi, dell'intero gettito del Tax Day. Poi c'erano anche i pagamenti dell'IVA, e allora scrive Daniele Manca in un commento che sta affiancato a questo servizio di Sabella sul Tax Day di ieri: troppe tasse e riforma, è una riforma da fare a costo zero, semplificare. Avete ascoltato nel corso del giornale radio queste polemiche interne al Partito Democratico sulla opportunità di proseguire sulla riduzione fiscale. Ecco, qui però si tratta proprio di una riduzione del numero degli adempimenti fiscali, perché è evidente che stare dietro a 106 cose in uno stesso giorno non è la cosa più semplice, cadendo per di più in un periodo, quello di agosto, in cui molte persone sono in ferie. Basta il numero, scrive Manca, oltre 100 scadenze fiscali concentrate nella giornata di ieri per un importo attorno ai 23 miliardi. E questo appuntamento ci ricorda cosa significhi per i cittadini il fisco. Allora, la richiesta di Daniele Manca è: semplifichiamo, per favore, riduciamo il numero almeno di questi adempimenti. Ultima parte della nostra rassegna stampa. Come sapete, appunto, Ventotene ha occupato gran parte di questa trasmissione, ma perché appunto i quotidiani di oggi danno tutti ampio risalto, scelgono tutti di dare ampio risalto a questa vicenda, a questo incontro di Ventotene, anche perché è importante, era importante capire quanto potevano esserci degli spiragli per la famosa flessibilità, un termine che abbiamo imparato ad associare alle nostre misure fiscali. Allora resto sul Sole 24 Ore, perché Carmine Fottina segnala lo stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda la manovra per il prossimo anno. Allora, il cantiere della legge di bilancio, così come viene riassunto nelle pagine interne del Sole 24 Ore, prevede tra l'altro la proroga del superammortamento cosiddetto al 140%, ci sarebbe addirittura una versione maggiorata con un ammortamento portato al 200%, tutti i particolari per chi si occupa della materia a pagina 7 del Sole 24 Ore, ma ci sarebbe anche un pacchetto per sostenere la crescita e per incentivare anche il rientro dei cervelli da parte con misure fiscali. Tra l'altro, a proposito di misure fiscali e di legge di bilancio, segnala il Sole 24 Ore e poi altri giornali in maniera più ampia che dal 15 settembre è attesa la partenza dei 500 euro annunciati dalla legge di stabilità per quest'anno, quindi varata a fine del 2015, i 500 euro per il cosiddetto bonus cultura dei diciottenni. E questo bonus messo appunto, varato nella legge di stabilità, per consentire ai diciottenni di andare al cinema o per acquistare cultura, acquistare libri, acquistare ingressi ai musei. Il meccanismo complessivo sarà poi determinato nei prossimi giorni. Appunto, l'annuncio è stato per un inizio dal 15 di settembre, il meccanismo complessivo sarà delineato nei prossimi giorni, viene anticipato nelle sue linee generali da Francesco Di Frischia sul Corriere della Sera. Si tratterà sostanzialmente di una app, così come aveva detto il Presidente del Consiglio a giugno, una app, quindi sarà un meccanismo sostanzialmente telematico, digitale, completamente elettronico, una sorta di borsellino elettronico per consentire al diciottenne, a chi compie 18 anni quest'anno 2016, di usufruire di questi 500 euro per sconti, per così dire, sulla cultura. Cambiamo completamente argomento e torniamo su questioni invece più economiche, più preoccupanti, per così dire, dal Fatto Quotidiano, l'effetto paradossale del nuovo codice degli appalti. Ora, come sapete, dalla primavera scorsa è stato completamente rivisto il codice degli appalti, anche per recepire una serie di indicazioni europee, ma quello che si voleva era soprattutto evitare fenomeni di corruzione. Codice nuovo, appalti fermi, leggo però dal Fatto Quotidiano, così si rischia la recessione. Scrive Carlo Di Foggia: delle due l'una, o le amministrazioni pubbliche hanno chiuso i battenti in blocco o qualcosa non torna. Da Bolzano a Caltanissetta è tutto fermo. Si intende la pubblicazione dei bandi per gli appalti pubblici che da qualche mese, per la precisione dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, registrano un tracollo da tempi di recessione che potrebbe assestare il colpo di grazia ai conti pubblici. L'ultimo allarme l'ha lanciato ieri l'ex capo economista del Tesoro Lorenzo Codogno: se continua così, l'impatto sugli investimenti pubblici rischia di affossare la già debole ripresa. Qual è il problema? Secondo appunto il governo e l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, siamo in una fase di transizione, perché bisogna adeguare tutte le procedure, quindi questo ha creato un rallentamento. Non così però il giudizio dell'ex capo economista del Tesoro, e leggo sempre dal Fatto Quotidiano da Carlo Di Foggia: il guaio è che il codice è tutto sulla carta, perché delle 51 norme attuative a bilancio ci sono solo due decreti, e delle 10 linee guida dell'ANAC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nessuna è arrivata in porto. Per tre di loro il Consiglio di Stato ha chiesto modifiche, e così le attività di costruzione si sono contratte nel primo trimestre, e lo stallo, secondo appunto Codogno, può avere un effetto notevole nel tempo, tanto che l'ANCE ha tagliato le stime di crescita reale delle opere pubbliche dal 6 al 0,4%. Se va avanti così, si avrà inevitabilmente un impatto negativo sul PIL. Speriamo naturalmente di no. Nella prossima manovra, prendo da Repubblica, si attende anche la misura per il rilancio dei condomini. In arrivo, scrive Repubblica, un ecobonus, un fondo da 4-5 miliardi per finanziare la riqualificazione energetica di 12 milioni di vecchi edifici. La misura sarà inserita nella prossima legge di bilancio, sarà determinante l'apporto della Cassa Depositi e Prestiti, soprattutto per sostenere le persone che vivono nei condomini e che magari non hanno sufficiente reddito per sostenere la spesa e poi usufruire dello sconto fiscale. E quindi questa è la misura che viene descritta da Valentina Conte, viene nel dettaglio su Repubblica di quest'oggi. Ma da Repubblica prendo anche lo spunto per cambiare un pochino il tema, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione. Allora, non date zucchero ai bambini. La cosa so che potrebbe suonare un pochino contraddittoria, quasi paradossale: vietati fino ai 2 anni dolci e bibite gasate. Questo è il titolo dell'articolo di Elena Dusi, che trovate su Repubblica di oggi. Deriva da una ricerca, manco a dirlo, ecco, una ricerca che viene dagli Stati Uniti. C'è una ricerca, ma soprattutto adesso c'è una direttiva che viene dalla American Heart Association, quindi associazione che si occupa di prevenire le malattie di tipo cardiaco. Non è mai troppo presto per iniziare a combattere i chili di troppo. con i rischi correlati poi di ammalarsi di diabete, vedere proliferare i grassi nel sangue, e allora non diamo più, verrebbe da dire caramelle, non diamo più zucchero ai bambini. È tempo di scindere il connubio, scrive Elena Dusi. In un'epoca di obesità dilagante, ai genitori oggi si consiglia di non dare zucchero ai bambini. Bando totale fino ai 2 anni di età, questa è la ricetta appunto che viene dagli Stati Uniti, e anche dopo comunque fino ai 18 anni non bisognerebbe superare i 25 grammi al giorno, che vuol dire 6 cucchiaini scarsi. La direttiva arriva dall'American Health Association, secondo la quale non è mai troppo presto per iniziare a combattere i chili di troppo, e quindi bisogna prevenire, evitare un eccessivo consumo di zuccheri. Tra l'altro la Gran Bretagna, ricorda Elena Dusi su Repubblica, ha introdotto una tassa sulle bibite zuccherate che dovrà entrare in vigore nel 2018, con la promessa che gli introiti saranno poi usati per costruire strutture sportive o promuovere comunque stili di vita salutari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'anno scorso aveva raccomandato agli adulti, questa volta, di non superare i 50 grammi, fanno 10 cucchiaini da tè ogni giorno, e poi anche la Food and Drug Administration americana ha pure ridotto le sue indicazioni. È bello sapere, insomma, che noi, pur facendo un consumo abbastanza elevato per quanto riguarda i nostri bambini di zucchero, voglio dire i bambini italiani, tra 2 e 9 anni siamo a 87 grammi di consumo, naturalmente la solita media, quindi ci sarà qualcuno che già pratica questa astinenza allo zucchero e qualcun altro no. E questo 87 però è decisamente sotto la media europea, che è di 97 grammi, questo per quanto riguarda il consumo giornaliero di zucchero per i bambini dai 2 ai 9 anni. C'è anche un'intervista a un pediatra che dice: decisione giusta, dai primi mesi dipendono le abitudini future. Però precisa anche il pediatra Giuseppe Morino, che è responsabile del servizio di educazione alimentare dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, dice: con la capacità di capire quando è giusto chiudere un occhio. Dice: non è un bando eccessivo, no, lo raccomandiamo anche noi, aggiungendo zucchero si stimola il gusto per il dolce, poi diventa difficile tornare indietro. Però non bisogna cadere nell'ortodossia: se i bambini sono insieme e tutti mangiano un biscotto, anche il nostro lo deve fare. Non a casa, quando è solo, la crescita deve essere sana, ma anche serena. Qualche eccezione è doverosa. Quindi dal niente zucchero ai bambini sotto i 2 anni possiamo correggere con una previsione con qualche eccezione, appunto, così come consiglia il pediatra. Ho ancora, credo, un paio di minuti, chiedo conferma a Peter. Sì, Peter Bescapè mi fa cenno che è così. E allora, vi avevo segnalato questa vicenda di Ragusa, del rapimento di Ragusa, su cui ci sono anche dei titoli molto polemici, tentato rapimento. Spiega sul Corriere della Sera Felice Cavallaro, la PM, 34enne, giovanissima PM, che è al primo incarico, si chiama Giulia Bisello, è stata attaccata pesantemente per la sua decisione di non procedere a ridurre la libertà, incarcerare, insomma, questo indiano accusato di questo tentato rapimento, ma spiega che il reato, spiega a Felice Cavallaro, prevede una pena da 1 a 10 anni, ma per chiedere una convalida del fermo eseguito dalla polizia serve, e lo dice la legge e non l'ha scritta la PM, serve una pena minima di almeno 2 anni, e questo invece è il reato per il quale si stava procedendo ha una pena minima di 1 anno, e quindi non si può, ecco perché non abbiamo decretato il fermo. Se lo chiedessimo, il GIP, il giudice delle indagini preliminari, lo rigetterebbe, e quindi la misura di restrizione alla libertà personale nei confronti di questo indiano non è stata presa. Così poi sul Corriere della Sera spiega per i motivi della sua decisione. Vi ricordo che naturalmente dopo il giornale radio andrà in onda Ma cos'è questa estate? Questa mattina parliamo della generazione perduta, tra l'altro sarà ospite Enrico Costa, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, si parlerà del bonus per la famiglia e di mamme under 30. Bene, è tutto per questa mattina, una buona giornata a tutti da Mauro Meazza.